mascherina. Non c'è problema, certo non me vado in giro in macchina, a destra e a sinistra. Ma ora quando devo rientrare il 27 dove chiamare il taxi, io non lo posso accompagnare. Beh sì. E vabbè, pazienza già. L'importante è che sia qua e che faccia il Natale con voi, poi si va bene a luce. È un bel casino questa volta, è un bel casino. Invece il ragazzo viene il 24, lo liberano. Non gliel'hanno dato prima le fili per partire scena. Il 24 danno le fili per il 24 qua. E può viaggiare? Sì, perché c'è la residenza qua. Loro hanno avuto la provincia di lasciarci la residenza qua, capito? Meno male, se no... Quello è il problema, io non sapevo. Meno male, fortunatamente hanno la residenza, quindi si possono spostare, però è sempre una rottura di scatole. Avanti, Tony, riprendi. Si può andare a trovare parenti stretti, giustamente. Ma sono reso con l'azzurra, è andato con la mia ex e mia figlia, la circonvena. Poi, in tal caso, ho tante cose, patologie mie che posso insinuare a tutti, mi vrei, ma non è. Sono andato in farmacia, sono quasi epatico, quindi, ma comunque, in base a quello che ho sentito, eccetera, posso andare tranquillamente, non c'è problema. Sì, quest'anno l'ho fatto proprio un casino. Prima all'inizio l'Italia per le feste è tutta gialla. La mazza mi fa è fatto pensato. Chi che va lì che è fatto tutto luglio, qui infatti. Lo sai tu lì cos'è? Che hanno confuso un bel idea. Uno si prepara per una certa cosa, a fare festa, comprare la roba, e poi c'è il freezer perché non può fare nulla. Un casino. E poi c'è sempre certe cose non sono stati chiari, uno si fa le domande, non è che c'è internet, ti fa la domanda internet, ti risponde, però non sono stati molto chiari certe cose. Infatti ho intervistato gente di Milano, dice non capiamo più nulla, sto governo fa schifo, un po' può uscire, un po' non può uscire, un po' ti bloccare, cioè sono cazzoni tutti, hanno ragione. Hanno ragione sì, purtroppo Marco Conte sa che cosa fare, perché diciamo che c'è anche gente che non rispetta le regole, e quello è in primis, non rispettano le regole e fanno sì che la cosa aumenti. Adesso c'è questa nuova ondata in Inghilterra, cosa che ha portato questo non so come chiamato, un nuovo virus o qualche cosa del genere, che praticamente ha contagiato anche questa coppia di italiani, sono andati a Roma e erano contagiati ed hanno ricoverato tutti e due. Quello del virus però dice non è aggressivo come questo che abbiamo noi, Covid-19. È molto contagioso, ma non è aggressivo, cioè non si muore. Vabbè, ma non esciamo più, cazzo, ne combattiamo per là, lui. Una guerra, è una guerra virale. Comunque ho fatto il tampone stamattina negativo, meno male. Ma subito tra alle 8:30 stamattina. Meglio così, perché so che in quella di uscita ce n'era qualcuno che ci aveva, che era contagiato. Gamba, sono ancora in quarantena, molti non sono rientrati. Abbiamo fatto il lavoro rapido, in un quarto d'ora si è già l'esito, capito? Non possiamo andare a lavorare, ci hanno chiamato che è tutto a posto. Gamba, e già va bene, non l'avete fatto, abbiamo messo. No, sempre dove lavoriamo noi, sempre. Perché abbiamo messo, ce li hanno, c'ha foresta i vigili urbani, tutta la bondezza, quelli della bondezza, non so come cazzo si chiama la ditta che fa spazzamento a strada, eccetera. Poi cosa c'ha? Un sacco di ditte, c'è anche Acciona, tra l'altro. Ma faccio adesso di appalare. Già la seconda volta che lo sono fanno qui, capito? La prima volta lo sto rizzendo, cioè prima il serologico, trovate sangue, poi rizzendo, poi già due volte rapido, il 4 dicembre e più oggi, sempre quello rapido, è una che oggi mi ha chiamato un collega già, quattro gruppi di Acciona ci sono, quattro gruppi di appunto della depurazione. Tutti i gruppi coronavirus. E il gruppo da qualche composto, da qualche fascia? Da 4. 16 sono. 16 a casa ne hanno in quarantena. 16. Sono disperati. Infatti te l'ho letto l'altro giorno che ci avevano preso il caffè. Mi ha chiamato Voss. A vedere se vai ancora Giudito e fatto un bludo. Dice ma vai, lascia perdere, a parte il fatto che non ce la faccio più fisicamente. Oramai mi sono abituato a questo tenore di vita e non ce la faccio più, ma poi anche facendocelo assolutamente. Oh, abbiato che mi è tornato il sangue al cervello, cazzo, ma non ne avevo più. Corretto, ma non fai tanto una barca di soldi, già te l'ho detto. Almeno dice in questo periodo no, lascia perdere assolutamente, no, non me ne ha fatti nulla. Penso alla salute, io non ai soldi, non avevo voluto la famiglia di esaurimento d'ora, ma non te ne vai. Cambiato totalmente carattere, umore, tutto. Arrivavo a casa nero, incazzato, no. Non sopportavo manco a me stesso, della testa che mi scoppiava tutti i santi giù e tutti gli impegni che avevo. Adesso di nuovo iniziare a capo, ma manco mi scende di gioco. Adesso devi solo riposarti. No, Tony, guarda, se fosse stato un lavoro normale, no, a dire sei un dipendente normale, vai lì, fai il tuo lavoro, come puoi essere tu, no? C'è il tuo ordine di servizio, domani bisogna andare in quella scuola, ecco, vuoi quella scuola, devi fare questo impianto, te lo fai, fini di routine. Io no, Tony, io no, te l'ho spiegato. Assolutamente, era una cosa da, ma non te lo posso neanche raccontare, perché io uscivo da qua, tu immaginati che io timbravo alle 7 a Sorso, partivo da qua alle 6, proprio perché volevo essere tranquillo, mi fermavo in via Pascoli da Adamo, tutti i santi giorni, facevo colazione, e tranquillo, mi davo un'occhiata al giornale, al Corriere, la Nuova, la Gazzetta. Beh, sono le 6, 7 meno 20, mi mettevo in macchina, intanto da via Pascoli all'impianto di Sosso, facevo San Camillo, facevo 15 minuti. Ma come io mi sedevo in macchina e partivo da qua, ma tu immaginati alle 6 e un quarto già squillavo il telefono, alle 6 e un quarto del mattino. Infatti io cominciavo la macchina e accendevo il telefono. Dove sei? Cosa vuol dire dove sei? Sto uscendo di casa adesso. Perché? No, perché alle 6 e mezza arriva l'autobotte lì, alle 7 meno 20 arriva Tizio, alle 7 a Sorso arriva, cazzo, ma mi molletti o non mi molletti? Tutti i santi giorni così, Tony, tutti i santi giorni. Partire da Sorso, appena timbrato, il mio itinerario era andare a farmi il giro, intanto sistemare tutta la squadra. Una volta la squadra sistemata, io mi faccio i miei giri di controllo, di verifiche, magari ce la prende materiale, eccetera. Come... Oh, ragazzi, tutto a posto, io mi sposto, se avete bisogno di me, sto andando un attimino all'Isola Rossa a vedere se tutto a posto, perché c'era un'altra impresa. Nel tragitto, qua, dove stai, dove sei? Sto andando all'Isola Rossa, che c'è la maturità. No, torna indietro, avesse fermato l'impianto di Santa Maria Colina. Scattata è andata, ma nero. Sempre così. Tutti i santi di. No, così rompe, poi. Io ho tutto il programma lunedì, martedì e mercoledì, perché poi mi è finita. Oggi Sassari, Ipsar, domani sono Anghero e dopodomani Porto Torres. So già cosa devo fare, non è il grande lavoro. Quindi, timbro 7.30, timbro 14.10, ho finito la giornata. Ciao a tutti, buonanotte. Tony, io così avrei messo la firma, sei rientrato immediatamente. Ok, anche perché ti ripeto che mi hanno offerto un pacco di soldi. Ok, per dare una mano in questo periodo. Ma non ci rientro proprio per questo motivo, anche perché a me mi ha chiamato quello che è in alto, che ci diamo il tu, siamo molto amici. Però poi ho consultato l'altro mio collega, quello che fa lo stesso mio lavoro, mi ha detto mi non ti venga in mente di rientrare perché tu diventi matto. hai visto quello che facevamo prima? Mi hanno raddoppiato il giro, non mi posso più fermare manco a prendere un caffè perché sennò squilla il satellitare, perché c'è il telecontrollo nella macchina. Non possiamo più fare quello che facevamo prima. Il lavoro è raddoppiato perché sono aumentati, mi pare, del 50% in più gli impianti. C'è un presidio da parte dell'ARPA, altre NOS, cioè NAS, di tutto. Lascia perdere. Figura di lui se io rientro, ma non te nane. No. Fai bene non centrare, per carità. Non pensa che io con me sto bene. Mi guarda, a me la giornata mi vola. Però non lo so, sarà che per linea il disco, sono stanco, clan, non a Gemelliana, non mi vuole andare in pensione, ragazzi, basta. Avanti già. Un attimo che sto mandando un messaggio a tu, riprendete pure. Hai visto che lascia il messaggio, questo la manda. Ugna, lascia il fare un da bravo. Lascia va Gianni, lascia va. No, tu mi manda, davvero, infatti. Poi ho parlato per tema elettorale, vedi un po', decidi, ve l'ho chiamato la tua. Non ti offendere, ma mi fa piacere che mi avete cercato, avete fiducia a me, eccetera, ma non ce la faccio. Ti do le cose minime da fare, lo so, quando tu mi dici così, a me che mi dai le cose minime da fare, questa frase la giudito, tu, me la ricordo, perché se ben ti ricordo, lei gli ho fatto un po' di prememoria. Ok, quando mi hai detto ti do la zona di Osilo, io pensavo mi dissi, mi davi Osilo, San Lorenzo Valle, Santa Vittoria e l'inizio di Sennori. Invece da Inchivi va via tutta l'Angrona, tutta, Nul, Tergo, Bulzi, Sedini, Laerro, Martis, tutti mi davi e si è messo a ridere. Quindi non ti credo a tu, ma non ti credo a Giulio, manco così mi va che prego d'oro. No, così il ragazzo è portato là, se già riposo tra gli anni, la gabbì, non ti va usando male. Sì, io quando era più messato lo stesso, uscivo la mattina e trovo la sera tardi, perché era distante e il pullman ci metteva quello che ci metteva. Sì, sono un po' nervoso lo stesso. No, altri tempi, ma sono 23 anni, ti dirò, è stato un po' bene. Però gli acciacchi che ho, l'età che ho, insomma sono quasi arrivato e quindi me ne vado a prendere i miei drucchi e vado in pressione. E ci vado ben volentieri. No, Tony, io ne ho fatto tra potabilizzazione e depurazione ne ho fatto 32 anni, quindi basta così, io non ho mai lavorato a Sassari, mai e poi mai, capito? Mai. Il primo periodo che ero a Cagliari, uscivo lunedì e rientravo il venerdì, poi grazie a mio cognato che non ho più la lingua a dirlo, era in politica, è riuscito a farmi avvicinare a Perfugas, non tanto a Sassari, a Perfugas, non c'era altro posto, quindi viaggiavo da Sassari a Perfugas tutti i santi giorni. Tutti sentivi, ero turnista, perché allora facevo i turni, 6-2, 2-10, 10-6, quindi immagina già di due, ho fatto un sacco di sacrifici, Tony. Basta, sono arrivato, largo ai giovani, io non avevo fatto più, non è per non farsi mandroni, eccetera, ti ripeto, mi ha fatto piacere che l'azienda a distanza di quasi 3 anni, che io sono 2 anni e 8 mesi già a casa, ma abbia tenuto in considerazione, perché io ho dato tanto, ma tanto, Tony. Non c'era giorno che a me mi telefonavo anche senza reperibilità, se un mio collega aveva qualche problema o non riusciva a fare un tipo di coso, io prendevo la macchina, sto arrivando e andavo, anche senza riposo. Tanti festivi, tante domeniche, ha giocato di tutto, ha dato, e questo loro se l'hanno segnato, perché se l'hanno segnato, però mi è dispiaciuto tantissimo non poter dare la mano, perché c'erano 16 persone a casa, ci sono impianti scoperti dove li stanno ammazzando, perché c'è tutti i santi giorni, l'ARPAS, c'è tutti i santi giorni, la provincia, capito, per le autorizzazioni dello scarico che è molto importante, c'è un sacco di cose da fare. E io non ce la faccio più. E io, clan, aspetta un po' la volta. Ma che ti ha chiamato lo 50 in frequenza? Ma al telefonino. E comunque, clan, quando si arriva a una certa età, loro, anche il nostro corpo deve riposare, e dice stop. Tu hai i motivi, quello che hai raccontato, quello che hai detto, giustamente, basta, e ne avanza. Hai fatto anche troppo nella tua vita, non devi continuare a sacrificarti. Anche il motivo viene solamente un dorso di piccio. Sì, no, ma mi dispiace, hai capito, perché ho un bellissimo rapporto ancora oggi. Perché quando sono andato via ne ho fatto una malattia, io sono rimasto mesi interi cercando di coprire, cercando di insegnare anche a qualcuno dei miei colleghi che ha preso il mio posto da un po' in difficoltà al primo periodo, e non mi sono mai tirato indietro, addirittura andavo anche con molti rischi, perché se ti trovano una volta che sei fuori c'è un controllo, ti trovano quasi casini. Quindi ho dato anche un anno dopo, però adesso basta, no, non ce la faccio più. Non ce la faccio più per mille motivi, sia per la salute, perché non sono più ragazzino, e poi per tutto quello che c'è da fare, c'è la testa, non è più quella di prima. Anche se mi ricordo perfettamente tutto quello che c'è da fare ancora oggi. Però rimettermi in macchina alle 6 di mattina, alle 6 di sera, no, non è più per me, capito? Assolutamente, cazzo, un pizzo di dolore che va già ricchina. Già l'ultimo periodo tenevo un cuscino nella spalliera del sedile, proprio perché avevo dei dolori allucinanti. Non stavo ore e ore in macchina a guidare, andare e tornare. Tanti viaggi, già vado a Cagliari, a Olbia, a Tempio, non ne parliamo, d'inverno, dove è giubilato, non te ne dico, di nuovo a capo, pure con questa pandemia che c'è in giro. Ah, Tinnandi, guarda, se non ci fosse stata la pandemia, forse avrei contato sino a 10, capito? Giusto per svagarmi, facendo 6 ore e 40. Ma proprio perché c'è questa pandemia ho talmente tanta paura, non mi muovo di casa, non manco ci mi bagagli. Che voleva entrare al tutto, sì. Conosco comunque quello che hai citato poco fa, il perfugas, abbiamo anche l'agraria noi, venivano anche là. L'agraria, Mora, Bonorva, Pozzo Maggiore, insomma, tutti i paesi, sono Frosinone, Alghero e via dicendo. A me mi vuole la giornata qua, perché ripeto, l'orario è compreso anche il viaggio, se io ci metto un'ora e mezzo, devo calcolare una mezza per tornare, e quindi con il resto delle ore che mi rimango, finisci il lavoro, capito? Ora ripeto, quando cambi scuola ogni giorno, cioè ti vuole sì la giornata, per quello per quell'altro cambia, insomma, è un po' più rilassante il mio, nessuno ti frusta, nessuno ti dice hai finito, ma hai finito, non mi comanda nessuno, sono appena specializzato a quarto livello, così il mio collega automaticamente lui si fa il suo idrico, mi faccio io idrico, prima ero da solo e mi facevo idrico, adesso invece meno male sono un collega, c'è un'altra macchina nuova, c'è un'altra macchina, tutta l'attrezzatura, perché la macchina è sfruttata di tutto, e ho speso 2700 euro, abbiamo tutto, quindi... E automaticamente ho detto, infatti Giuseppe, il mio collega, tra poco sarai solo tu, o ti metteranno con un altro, per dire che ne vado in pensione. Quanto sarà? Gio. Comunque sì, hai ragione, metà sei arrivato, hai fatto anche troppo, qua. Non bisogna strafare. La vita è una sola e bisogna godercela fin quando lo possiamo fare e ce lo permettono. Gesù Cristo ovviamente. Fin quando si campa siamo di passaggio, non sfruttiamo oltre il nostro corpo, quello che abbiamo fatto anche troppo. Registrato il break. Tony, io sono andato a pensione a 59 anni con 4 anni di contributi, penso che ho dato. Quindi, penso di aver dato, ho iniziato a 16 anni a lavorare, quindi penso di aver dato. Perciò, ma ti ripeto, se non ci fosse stata questa pandemia, avrei contato sino a 10, ma con questa pandemia io non me la sento di muovermi di casa. Avanti break. Aspetta, stava parlando Antonio, e tu lo senti Antonio, ma lui non ti sente, no? Non fa miracoli, avanti. Ciao Cla, buonasera, ben ascoltato. Non ho lasciato bianco Tony perché stava parlando Antonio col portatile, capito? c'è già e Torino, io e tu e Antonio Bombolo col portatile qua in deposito vicino a casa mia. Tony, io ti dico una cosa, della mia azienda in generale, quelli dell'otto della Sardegna, praticamente Sardegna, non provincia di Sassari, sono quello che ha girato più di tutti. Io oltre la mia zona avevo anche i fuori zona, che erano quelli a copertura di chi praticamente era un po' inferiore a me, non so i livelli che avete voi come sono. I nostri partono dal primo sino al settimo quadro, ok? Non sono dal settimo a scendere, sono dal primo livello sino al settimo. Il settimo quadro è un dirigente, il massimo dirigente che avevamo. Io ero un quinto livello, quinto, quindi ci occupa tutto. Quando io sono arrivato a Cagliari, alla Saras, mi avevano assunto come secondo livello. Quindi sono salito alla grande, ho fatto la mia strada con tanto impegno, con tanto sacrificio, con corsi di aggiornamento, perché da noi c'era tantissima roba da fare e quindi dovevi fare per forza i corsi di aggiornamento, soprattutto la parte tecnica per quanto riguardava tutti i sistemi di allarme elettronici eccetera. E quindi ho dato, ma quando io avevo il fuorizona, ti dico che partivo da Carbonazzi, il primo impianto che avevo era Giave, facevo Giave, Tiesi, Bonannaro, Torralba, Pozzo Maggiore, Bonorva, da Bonorva, non so se lo conosci, salivo a Rebicco, sopra, sulla montagna, poi tornavo a scendere, ok, entravo a Cossoine, da Cossoine scendevo e facevo Mara, da Mara prendevo la strada vecchia e ci salivo a Villanova, Roccaruria, capito? E arrivavo sino a Romana e poi tornavo indietro. Quindi immaginati tu sia a 60 anni oggi, a 61, mi bongo d'ora fa tutto questo tragitto, ma non ci sto manco pensando morto. Vai Tony per Claudio. Un attimo, ciao Pio da Ruginito, io sto andando adesso per giù a Taiso, sentiamo dopo magari. Ok Gianni. Ciao Claudio, Pio Ruginito, salutami a Gianni e la tua di Callona. Poi ciao Antonio, non ti posso dire ben sentito perché non ti sento, zero col portatile, qua negativo momento. Si è citato Claudio di nuovo a paesi che io ho già fatto, Pozzo Maggiore, Cossoine, noi abbiamo 64 scuole, tu fatti cose le faccio tutte, infatti io mi sono fatto uno specchietto, un libro che, un quaderno che lo conosce, che scrivo, qua mi sono ordinato questo, quando li ordino me la darò dopo una settimana, se mi rimando invece a vedere, sì, l'ho ordinato per questa scuola, vado qua e poi scrivo, ok fatto, e cancello, perché con tante scuole non puoi mai ricordarti tutto quello che devi fare, capito? E allora automaticamente, e poi il materiale lo prendo proprio il giorno che devo andare in quel paese, perché prima non posso accumulare la macchina, se no ci vuole l'autotreno, e che cavolo. Bene, ok, chiudo lo scritto, mi prendi. Qua sei 9:10, è un segnale abbastanza ultimo, credo che sì, caspita. Dai del 5, ultima. Sì, ho lasciato un attimo di bianco, bella sì quella. Va bene, dai, io mi allontano un attimo, lascio tutto acceso qua, riprendo tra qualche minuto, che intanto mi preparo anch'io per portare il cane. Ok, avanti Tony, riprendi. Ecco, d'accordo, avevo curioso la Claudio, poi ci sentiamo, perché dopo devo anche prepararmi la ceduta, ok, altri 5-10 minuti al massimo, poi anch'io chiudo. Poi scenderò più tardi, se trovo gente, forse non lo farò. Bene, QX, Gianni, QX, Claudio, ok. Chiedo Gito, siamo rimasti in due, perché Antonio è noto, portate e non lo sento. Avanti Claudio. PK. Niente, io dopo tanto mi sono messo quell'affare che mi ha dato tuo padre. E ok, e va anche troppo bene. Come ti sto andando adesso? K. Adesso come ti arrivo? 1, 2, 3, prova. Santo. Voglio fare un saluto particolare al carissimo, grande amico Battisio Gigante, se l'ascolto. E sempre un abbraccio grande, grande e buona guarigione al più presto. Tutto qua. Carpa è un vecchio CB, ciò che l'ascolto. Però non può modulare momentaneamente. Ehi, Carpa. E Gianni, Gianni, dov'è? Che fa? Ehi, Carpa. Anch'io ho un apparato che purtroppo non va. È un albrecht, come si chiama? Albrecht. In 8000. E non va, non ho capito cosa cavolo, nessuno ci è riuscito a capire. No, c'è anche uno gemello, uguale anche Gianni Doppio, che l'aveva fatto Manuele, mio figlio. Allora, quello che c'ha Gianni Doppio è uguale in tutto a quello che c'ha l'SSB, questo invece no, non è SSB. Due speaker e c'è anche il frequenzimetro, QB base station. Il Brecht 8000, no, è carino come cosa, accende tutto, sì, riceve, però la trasmissione forse no. Dovrebbe avere provato a canale, penso, presumo, non ho provato, non mi ricordo, perché c'è un frequenzimetro, penso che è 40, no, è più grande il veicolare, più grande, sì, e fa il doppio almeno. È abbastanza bello perché c'è due smitter grandi e più il frequenzimetro. Allora, questo funziona a 220 e 12 volt. Sì, faccio la foto qui della mano tuo padre, che c'è il numero di tuo padre. E K. Sì, bella e bella, però mi piace. Tenerla morta così, accenderla e poi spegnerla, non è mi piace più di tanto. Allora. Ecco qua. Io lo sto spedendo, già spedito a tuo padre, il baracchino che in cui ti sto parlando. Addirittura la l'ultima foto che ci ha mandato è spento e c'ha addirittura il riflesso del televisore, è lo smitter, cioè il coso di frequenzimetro. Adesso c'è qualcuno che vuole entrare. Beh, che? Avanti. Oh, ciao Tony. Ciao Claudio, ecco Tony, ritorno una curiosità, ma non ho sentito più Emanuele, ma non c'è a Sassari? Sì, ciao Giulio, era con me stasera, ti ho fatto una passeggiata, poi sono andati in agenzia perché dobbiamo partire il 14 o il 13, insomma, dobbiamo andare vicino alla Vena per operarsi le linee nel disco. Ah, ho capito, ah, va fuori qua, e dove devo andare? Vicino alla Vena. Sì, neanche io mi opero in Sardegna, manco Marecato. Oh. Ho capito, speriamo bene. Vabbè, dai. No, perché non avevo più sentito, ho detto, ma forse essere partito di nuovo fuori a lavorare o qualcosa del genere. Invece tu mi stai dicendo che c'hai qua. Vabbè, dai, continuate, io adesso scendo a mangiare, ci sentiamo. Ciao Tonino, ciao Claudio. Le prendi pure, io ascolto finale e poi chiudo, vai. Ciao Tony, ciao Claudio. Che giù, come fa poverino a lavorare, cammina tutto quanto piegato per le rendisco che c'ha. Ok, grazie di essere entrato Giulio, comunque tranquillo dai, al 100%. Stammi bene buon carico, avanti Claudio. Ok, calma. C'è qualcun altro che vuole entrare? No, va bene. Ok, sì, che volevo dirti? Ma comunque, io lavoro domani e dopo domani e poi in ferie. Vai che prima di Natale volevo stringermi la mano e augurarvi una buona festa, Bricicletta, cappa, aspetta che hai trovato Bricicletta, avanti Bricicletta. Rivella! Riprendi, Bricicletta, non è voce. E così è, comunque. Hai capito cosa ho detto qua? Che prima del 24 vengo a stringermi la mano e augurarvi buona festa. Cappa. Vai, ci hai fatto molte figure pure nel senso quello che ha detto lui, che faceva, dov'era e poi in realtà. Tu no, e tu forse faccio detto, come no, tu. Cappa, hai visto io non ne ho più solo lì, ma la verità è lui non può dire il contrario. Cioè, beh, non ho non se l'aspettava, perché diciamo è una cosa che lui poteva raccontare, tanto qua non mi conosce nessuno, quindi bene che fa la posta non sapendo, e poi ma cotto cano mai pare a barattino, parlo barattino anch'io, mi ha sentito la tua notte, si mette a raccontare bugie, ma è capo. Allora la bottiglietta in mano, ho detto guarda, questa è verticale e in giro la bottiglietta, questa è orizzontale, e da lì i miei colleghi l'hanno preso per il culo, e questo il micillotto se n'è andato da un direttore che l'ho preso per il culo, mi ha chiamato il direttore e gli ho spiegato, guarda, si è preso per il culo da solo. Io spero che il fatto si è messo a ridere. Guarda, domani faccio la foto all'ufficio suo dove lavorava lui e te la mando, così gli fai quattro risate. Una cosa, guarda, innanzitutto a lui era un picco pallino, lui è una ruota del carro che a base, quindi quinto livello è già un qualificato andante. Io ho quattro livelli, sono specializzato, io ho il mio mestiere, lui il mestiere cosa c'ha? Prima era disfestazione, miscugli con i scienticidi e boh, l'hanno messo in magazzino, non ho mai capito un tubo, perché sbagliamo sempre quello che ordinevamo noi. Quindi, una camera abbastanza un po' grandetta, con tanti scaffali, un banco fatto dalle tavole, cioè, seguito l'ufficio di Giulio, ma è capa. Ma lui ci ha detto, e quindi tu stai dando il cuore tu gli sei in malattia. Adesso lo dico a Claudio, la segretaria, no, ma perché lo devi dire? Perché comunque glielo ho chiesto lo stesso. Ma ecco, sei licenziato da molto. E dopo sei mesi ha finito. Hai un po' di alternata tra il portato appresso qua, in finale. Lui era praticamente, diciamo, nelle scuole, e diciamo in tutta la città dove c'erano insetti, scarafaggi, topi eccetera, e buttavo le sedicida, boh, e capo. Io l'ho guardato a Fiume Santo, la centrale dell'Ener, là c'erano 2400 operai, io ho fatto un delegato sindacale, lui avevo 54 delegati sindacali, 2400 operai, 86 ditte, penso un po'. E quelli che salvavano eccetera, gli davano il latte, a fine settimana non so quanti litri altri gli davano a testa, per disintossicarsi, quindi. Lui, strano, che lavorava in mezzo a queste 15 anni qua, e non gli davano il latte, e non lo beveva, e buh, cosa lo tigna, buh. E ma se così manco se ne vuole dei soldi, capito? È brutto così, è come che non c'è niente, perché se sei tizio automaticamente hai e non hai. Quindi io la moneta la faccio girare, spendo, compro, faccio, mi diverto, mi tolgo le soddisfazioni, quello è vivere, capito? No, che non c'è soldi, se le conserva e non si tolgo le soddisfazioni, assolutamente non esiste. E vabbè, faccio per lui, quello ti dico. Poi, pensione, non è la pensione, è una serie di invalidità che gli sta lavorando e basta, dici consente spicciolire e basta, non di più, ha già mai pensione, ma se rimane nei mondi, i parenti che c'ha, domani, penso per lui, cosa vuoi dire? Vabbè Claudio, dai, io mi devo preparare anche la ceruzza perché mi devo prendere anche le pastiglie. Mi ha fatto un immenso piacere, guarda, sentite, è troppo spesso, vai, che la sera già ci siamo qua, 6:30, 7:20, ci riuniamo un po' di passaggi e ci trascorriamo un pochettino, qualche mezz'oretta insieme, un'oretta. Ok, dai, qua, più tardi se vuoi entrare, io ci sono. Salutami a Gianni, tua madre e tuo fratello, simpaticoni veramente, mi ha fatto un immenso piacere. Ciao di nuovo Claudio, stammi bene. Capo, ti ringrazio, ci sentiamo Claudio, stammi bene. Buon carico anche tu quando lo farai. Salutami qua lì. Ciao ciao. Ok, ciao. Siete andati tutti via. Siete andati a mangiare a papà. Sono arrivato 5 minuti fa a casa. Ciao. fece a vedere lo strumento, quella mossa che andava bene. Uno e uno di stazionarie. Anche io giù. Ma già va bene, perché la Mantova mi dice che ne la Mantova è da controllare, altro. È da controllare la Mantova. I suoi anni vorrà fatta una pulizia, capito? Una tarattura. Ah, capo, perché quanto ti dà? 1,5. Allora, poi sta segnando, aspetta, non c'ho il rosmetto pluvio. Forse sono a 3 culo. Cosa? Ah, 1,8, 1,8, 1,7, 1,8. Anche a 2, là. Perché così tanto? Te l'ho detto, è burlata l'atta, ora ho fatto qualcosa, una manutenzione, tu. Parecchino a scalda. Ma diamo durino, ma te non è che c'è un problema. No, ma anche non scatta. Allora, ma non è che è falso, no? Non è che? Non è che è falso, lui. Poi domani mi sono dimenticato di prenderlo, domani me lo porto a casa. Per rosso. Cappa, perché non è possibile che ti dia quel rosso. Assolutamente. Cazzo, a chi c'è cosa perché ti ha bruciato tutto, lui. Aspetta un attimino, un secondo, ti stavo leggendo una cosa. Stavo leggendo il coso di Palopoli, che il sindaco attuale li ha fatti fuori 5 assessori. Sì, basso ti sento. Sì, ma io non ti sentivo però. Non so, forse è in zona di Claudio Carbonati. Dai, così un'altra cosa. Mi stavo sentendo, mi stavo. Segnali quasi uno, là. Comunque già ti sentivo, tu mai mi sentivo nella portatile. Già non credo, io. Non ho mai fatto la prova per a Milano se arrivo lo stesso. Magari non mi sente, però arrivo. Io in questi giorni devo lasciare il biello attaccato. E prova faccio fare una prova a Sara a vedere. Ma già va bene, dai. Già va bene. Che bel casino. C'ho quello incoglionito. Incoglionito. Cosa si stai mangiando? Comunque la roba là va bene, Antonio. Positivo, sì, va bene, là. No, già è buona quella penna. Io devo cercare ancora perché ha già fatto un po' di pesca. Hai fatto un po' di festa? E a casa. Ehi, uh-huh. Però i miei brani sono più belli. Ce ne sono tante recenti, controlla bene, ce n'è. Cappa, io devo controllare bene con la calma un giorno. Avne poco dei brani. Ciao, avne poco. So come cazzo si chiamano. Non è scheda. Mi serve una schedina più. Che mi dia più voltaggio. Come si chiama il chip, no? Scheda, regolazione volt. Allora si idratente. Cosa stai riparando? No, mi serve per i LED, tanto, controllare i LED della TV. Oh. Accuso questa sera, mamma mia. Te credo, lasciava se li trovo negli acquisti che ho fatto, tre messaggi, aggiornamento. Ciao Luca, ci mutatiamo a fare le informatiche, abbiamo aggiornato l'account per gli utenti di eBay. Cosa è? Che cosa è? Cosa è? fatto. Ma come cavolo si chiamano? Hanno un nome, esatto. Non lo so. Ma tu compri un bel dai bene. Qui mi dà scheda qua. Mi dà scheda, ma non è scheda. Chip neanche, no? Io compro un bel cianto. Un bel. E anche per gli altri. Però adesso mi do una calmata. Capito? Mi do una calmata perché è un casino. Beh, se ti servono i pezzi però devi comprare. Cazzo, poi sono stato qua una, a due anni, a station, saldato, mi saldato alla stazione, 80 l'avevo pagata. 80 euro. E già saldato e non funzionava più. Io che smetto. Non sei uscito di portante, cosa è successo? Mi è uscendo sto. Eia, adesso sì. Ho detto, il giorno che non funziona più, l'aria a casa ce la butto. Beh, nei figli una fanuba, nei figli. Cosa devi fare? Ma fa nuova e via. Forse è fatto lui. L'hai pagata 80 euro con la stazione saldante. Professionale, ma cos'è ad aria eppure? L'aria calda e lo stiletto non funzionava più però. Ah, non è professionale, magari. Beh, già 80 euro è che cosa di diverso. Vabbè. Non so chi sia 20 euro, 30 euro. Diciamo sono così, da. Andate. Capa, no, già è buona già. Stiamo saldando. Ne avevo avuto una, però non era, come si dice, non era ad aria, era normale, però bellina, ce l'aveva avuta mio padre, io ho saldatori normali, però già funzionava lo stesso, dai. Ah, sì. E quindi mi dà carichini, scheda TP 40 50 sim 2 seguiti, carica batterie, no. Forse questo qua, regolatore di tensione, vedo qui, eccolo qua, regolatore di tensione. E l'ho fatto. Però non lo so, lascia vedere. C'è l'ingresso. Poi ci vuole 5 volte, mi dà la tensione, così. Ah, ecco. Sì, 25 volte mi dà. No, 28. Però mi dicevi, boh, 50, così 40. Chiaro. Pensati devi a vedere cos'è c'è cosa. C'è elevato di tensione. Elevato di tensione velocità 200 volt, regolatore di. Questo qua mi serve. Questo va bene qui. 5 euro. Facciamo l'ordine. Fa da 4 a 38 volte, mi va bene 38 anche. Ah, vero? Che bello tu grubaghi? 5 euro, piccolino, mi ha detto, un cibo piccolino. Poi ci va ad attaccare l'ingresso dell'alimentazione e l'uscita, no? E praticamente ti serve per... mi serve una tensione da... quello ci è 28, un 3, vai qua, anche 35 va bene, 38, 40 la meglio, comunque va bene anche questo qua. Capo, va bene sì. Cavolo, si compra bene però, che se no mi si gode, no, non acciappi, ma manco fa l'idea. su e già si trova tutto. Tante cose qua non si trovano. Sì. Io volevo prendere da base, ma cazzo costa. Lo vuoi comprare? Ho regalato le tensioni da base, tipo l'alimentatore. Sì, lo so cosa è. Ma tutte cose che qua sicuramente non troveresti mai. Ma mai. Tutta roba che trovi lì è fuori. Cioè qua non ce ne manca a parlare. Qui c'è questo convertitore, il regolatore di tensione. Piccolini mi sono altro, quanto la cingomma, più o meno, quanto la cingomma, quante 2 euro, dai, più o meno la grandezza. Già va bene già. Sì, ma magari c'ho componenti per computer, per TV, per roba così, no? Poi c'è questo qua, LMLED, voltometro, questo è un voltometro. Da attenzione, va. Carino. Sì. Adesso vediamo. È bello, sì. Che già te lo devi costruire tu, mica ci vuoi attaccare la batteria dietro. C'è un'entrata e un'uscita. Non mi pare che l'ho visto una cosa del genere da un po' di tempo fa. Se lo devi costruire tutto, lo devi costruire. Adesso andare a belle cose già. Allora, ti faccio un esempio. Allora, questo chip, piccolino così, c'ha il regolatore, lo porta a 12V, 13,8, ci sei? E io accendo il baracchino, c'è una batteria di telefono, con questo chip accendo un baracchino. Ah, vero? No, ma che? Questa rola funziona, se premi la portante funziona pure. No, è perché gli ampere sono, c'ha mille ampere, no, però te l'accende. Questo è ora di testa. Quindi io trovo quasi tre pezzi, convertitore, regolatore di tensione, 3 ampere, tre pezzi, 6 euro. Sì. Sono carini, sono molto utili. Poi per quello che faccio io. Con 3 ampere già vi lavai, pure chi ci la portante anda. Certo, non è che lo fa uscire, però ce la fa. Lo so. Già lo saccio. Cavolo, un apparecchio da 4 watt te lo porta bene. Ma bene però me. Non so poi se ha la resistenza, la cosa bomba, però. Allora tu conta. Questa pennina da 1 TB costa 12, 13, 16. Cazzo, 20 euro. Da 1 TB. La tua è da 2. Sì. Mi hanno detto comunque che il costo di queste penne di magari hai. Me lo stavo dicendo un rivenditore a me. È vero. No, non ci volevo credere, me l'ha fatto vedere. Comunque cazzo, in Cina costa una cazzata, ma ci mettono 3 mesi ad arrivare. E bisogna avere pure già arrivi, inizio. Sì, ok. Perché in Cina non pagano la CIAE. Allora, in una da 120 GB è quella più grande, è quella più comune. Cazzo pagava 6 euro di CIAE pagava. E informati a me, ti sto dicendo bugie. Allora, 512 costa. Basta te, e basta cazzo. Costa circa 10, 512, 10, 12 euro, 512. Sì, sì. Magari là hanno qualche scamottaggio, qualcosa. Però te lo sto dicendo. Te lo sto dicendo loro. Pagano, cioè tu informati a ver se ti sto dicendo bugie, pagano questo cavolo di CIA e pagano. Cioè normalmente, poi non lo so se quelle comprate così lo pagano i diritti d'autore. Cioè, perché lì ci puoi caricare la musica e quindi loro ti appioppano questa roba qua, hai capito? Forse perché fa musica, no perché ha pieno, non sta scherzando, perché fa musica sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sicuramente qua pagano. Qua pagano quella tassa lì pagano. Faccio la devo riordinare io. Ma non vuoi anno. Così faccio un'unica chiavetta, ci metto tutta la roba che c'è dentro. Allora, dove c'è scritto? Invece ce l'ho qua la pennina, aspetta. Ah vabbè, nella pennina tua, dove c'è scritto basi apri, lì sono tutte le basi già pronte, tu le apri e c'è già il karaoke già pronto a cantare. Sì, sì, l'ho visto. Ha voglia fa karaoke in chi? Sì, adesso mi devo guardarmele bene. Questa settimana poi comincio ad andare a casa e ho messo un po' il computer e mi riguardo attentamente per vedere cosa c'è. Cioè, perché non è che l'abbia sfogliata fondo a fondo. Allora, poi a tu, c'è anche, come si dice, c'è anche la SSD, per la dischi di quello grande, con il case, no? Va bene anche quello. Sì, sì, sì, lo so. Poi vabbè, questa è più piccola, più maneggevole. Sì, però è così come ti ho visto là, normalmente quanto costa. È così come ti sto dicendo io. Minimo anche vieni a pagare 15 in chissà scheda. 15 o 20 euro in quella USB lì. Molti non lo sanno, normalmente. Cioè, te li includono, ma poi ci sono alcune eccezioni che... però se tu vai da un rivenditore a Sassari, eccetera, eccetera, cazzo ti includo la CIA in mezzo. Poi se ti vuoi mettere qualsiasi altro dato, loro non ne frega niente. Però te la fate di bagare. Sì, sì. Se volevo acquistare un'altra, ma cazzo devo fare? Che devo scrivere? Pendrive, USB. Adesso vediamo un po' se me la fa fare qua da internet, vediamo. No, va. E perché non si trovano quelli lì? Assolutamente, non si acciappano. Non c'è nessuno. Ah, boh. Oggi ho sentito stasera che c'è un bel po' di gente, poi, boh. Da certe ore poi le trasmissioni sono chiuse, poi, boh, non lo so. Prova a farmi un giro di canale, poi non vedi nessuno. E la prova? Sì, sì, l'ho già fatto. E non ce n'è più. C'è più alto. Sì. Adesso sono messo nelle preferite, vediamo. Vediamo un po'. Passiamo da qua, vediamo. Riesce a vedere un po' se ha. No. Non me ne più. E c'è la tua carità. Di cambiare le caratteristiche giuste. Chi so da Da zinculura ti attacca di nocche, cazzo, ma una schioppettata è sempre bene fa. Tu hai sbagliato il venditore. Allora, mi guarda, questa inserzione è stata chiusa dal venditore perché c'è un errore. Beh, praticamente la penina costava 50 euro, più di 50 euro. Sì, l'avevo inculata. Certo, no, vai vinto due. 50 euro costa la penina, io mi stavo qua, ho trovato la foto. Allora, infatti mi sembrava troppo 25 euro. Vabbè, bisogna vedere le luci. Per farti vedere. Non vi dà la più, ma siamo dei vista. Questa qua è simile, siamo adesso. Oh, sono contento però, Cavolo, 50 euro sono pesanti a comprarla. Infatti già me la tengo stretta. Questa qua arriva da Hong Kong, Taiwan. Questa qua, 11 gennaio, 1 febbraio. Un affarone è fatto, Antonio, un affarone. L'hai visto? Cazzo, se lo sapeva, ne avevo ordinato due. E la sabbia, che lo sabbia. Più bello che guaccio. Allora, questa qua c'è nera, silver e gold. Gold. Bellina gold, riesci a vedere? Tu vuoi che no? Ma che cazzo di buoni 3 mesi da vivi? 12 marzo, 12 gennaio, 1 marzo, e qua costa circa 12 euro, e più c'è la dogana, vabbè, 12 euro costa, ma tanto 3 mesi non mi puoi aspettare, no? Beh, certo, da voi ti dimenticate il muro. E poi il discorso è che se non arriva è un casino. Casino sì, cavolo. Me la metto bene, costruita bene quella penna. Cazzo, 50 euro in mano faccio. Dice, ma perché non me la vendi? Pure 40 me la puoi vendi pure, tanto tu non li vendi. Perché me la devo vendere se serve a me? Appunto, te lo dico. Nel caso si può anche rivendere. No, qua in Italia non è giù a quel prezzo. Mi dai già trovato poco fa la porta, in Italia costa così, uguale. È uguale identica. Sì, perché l'Italia paga la CIA e per da Sauri da Buro. Magari la penna in effetti non costa neanche tanto il driver. Ah, cazzo, più è manna e più paghi a Marazzurri. E sai, esaurito. 512, vediamo quanto costa? 10 euro. La fiamma. Mi sbaglia tra non gatto, cosa mi ha detto 28 o cantetto 120, quella quasi quella cifra è una cosa così grossa, beh, mi sembrava però che costasse così poco. Infatti già ha messo che c'è stato un errore di vendita, ma giù bello, ma ci avete tanto gusta. Riesci a vedere? Sempre il primo marzo. È piccolissimo questa quanto, costa circa 12 euro. Ma ragazzi, secondo me è una fregatura. No, perché in Cina costano così. Pensa che quello di mai se ne ha comprato un centinaio, se ne prende, vabbè, lì quello lì ha sbagliato alla fine. Ma se le vende così, li fa i soldi, Quelli vanno bene a chi fa karaoke. Già lo credo, via. Via, ma è lui che... Vado a farmi la doccia, va, ce la sentiamo. Ce la sentiamo, va. Via, ciao, Antonio, facciamo un'aria a fare la controlla a mamma, io. E poi mi corco. ciao, va, va, scendo giù, va, va. E via. Ok. Ciao, ciao.